in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. E in attesa che veramente inizi la fase di riapertura di tutto e che quindi si possano di nuovo dare notizie che poco hanno a che fare col coronavirus, questa settimana siamo ancora alle prese in tutto il mondo con le notizie legate alla pandemia. Per esempio su Vox Europe c'è un articolo pubblicato dall'Express, che è un settimanale francese, che si intitola «La solidarietà europea è una realtà, al di là delle polemiche sui Corona Bonds». Sapete che Corona Bonds è diventato il nome, il nuovo nome, con cui sono stati ribattezzati quegli Eurobond, cioè titoli di Stato con garanzia europea anziché nazionale, di cui si parla e che non si capisce bene ancora se mai vedranno la luce. Però in questo articolo Guillaume Clossat spiega che dopo un inizio segnato da lentezza e confusione, parliamo naturalmente delle ultime settimane di febbraio e delle prime di marzo, e anche senza che ci sia al momento bisogno di mutualizzare il debito dei paesi membri dell'Unione Europea, appunto i Corona Bond o Euro Bond, la solidarietà europea è adesso all'altezza della sfida storica posta dalla crisi senza precedenti del Covid-19. Diciamo che è una visione un po' ottimistica, alcuni segnali sono arrivati, in particolare dal Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, però che veramente, come dice Guillaume Clossat, si possa parlare di una solidarietà europea, ma insomma ognuno può farsi la sua idea. Io credo che non ci siamo ancora, perché esistono ancora troppo scetticismo, diciamo, troppa mancanza di fiducia verso alcuni paesi e in particolare i paesi del sud Europa e quindi anche l'Italia, da parte naturalmente di quelli nord europei. A proposito di Europa e di frontiere, sapete che tra i tanti traguardi raggiunti dall'Unione Europea, che si è evoluta in tutti questi anni, c'è quella della libera circolazione delle persone e anche dei prodotti, ma quella della libera circolazione delle persone significa che, come sappiamo tutti noi, in una situazione normale nessuno ha più bisogno di mostrare documenti d'identità quando passa una frontiera tra un paese dell'Unione Europea e un altro. E purtroppo questo, il Covid-19, l'epidemia da coronavirus, quindi Covid-19, che è per essere precisi è il nome che identifica la malattia, mentre il coronavirus è l'agente patogeno che la provoca. Purtroppo il Covid-19 ha cambiato questa situazione e quindi su The Conversation, che è anche in questo caso un magazine francese, Frédéric Berrot e Pierrick Brouillat si chiedono: ma le frontiere servono per fermare l'epidemia? Questo è un tema che ricorre, anche perché sicuramente ricorderete che in febbraio sia l'Italia sia gli Stati Uniti avevano cercato di chiudere le frontiere con la Cina in un certo senso, perché voleva bloccare i voli da e per la Cina, che è un modo naturalmente, diciamo così, di chiudere le frontiere. Quanto sia servito lo sappiamo, cioè a niente, e quindi insomma si dovrebbe discutere anche di questo. A proposito di Francia, sempre restiamo in Francia, perché Le Figaro, abbiamo detto all'inizio, stiamo andando verso la riapertura, si parla di fase 2, fase 3, fase Z verrebbe da dire. Sapete che sul tema della riapertura delle scuole l'Italia è un po' un'eccezione. Primo, perché il calendario scolastico dell'Italia è diverso da quello della maggior parte dei paesi europei. All'inizio di giugno praticamente le lezioni qui finiscono, mentre negli altri paesi europei si va almeno fino all'inizio di luglio, e quindi chiaramente riniziare adesso ha un senso in alcuni paesi, non lo avrebbe in altri. Quindi in Francia per esempio l'avrebbe, e quindi Macron ha detto che se non ci sono stravolgimenti l'11 maggio si riaprono le scuole. Sulle Figaro Patrick Bouet, che è presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Medici Francesi, si è espresso contrariamente, ha detto che in realtà non ci sono i presupposti medici per riaprire le scuole. Secondo Bruet, che è appunto sulle Figaro, quindi un giornale che non è sicuramente un grande sostenitore di Macron, ma neanche un forte oppositore di Macron e delle sue politiche, quindi Bouet alle Figaro ha detto che questa decisione rivela un'assoluta mancanza di logica. E qui spunta di nuovo il tema di come la logica, diciamo, scientifica non possa coincidere con quella politica e che quindi leader come il presidente francese Macron debbano prendere delle decisioni che tengono conto anche di altri fattori, non solo quello medico. Certo, la salute è al primo posto, però evidentemente Macron ha fatto le sue valutazioni ascoltando non solo il presidente dell'Ordine dei Medici, ma anche altri scienziati. Naturalmente, abbiamo detto, conseguenze economiche tutto il mondo dello sport, lo sappiamo, e Le Monde, per esempio, ha intervistato l'allenatore del Nantes, una delle grandi squadre francesi, che è anche padre di Johan Gourcuff, quindi il padre si chiama Christian Gourcuff, che è un ex giocatore del Milan. Adesso il padre ha 65 anni e fa appunto l'allenatore, e dice che tutto sommato, se il mondo del calcio riduce il suo stile di vita del 50%, nessuno si ritrova in povertà. L'abbiamo detto tante volte, un conto è fare riferimento ai giocatori di calcio, ma anche ad altri, per quanto riguarda altri sport, agli sportivi di altissimo livello che sicuramente hanno degli stipendi, degli ingaggi super milionari. Un conto è fare riferimento al mondo dello sport nel suo complesso, perché, per esempio, quando si annulla un evento come Wimbledon, certo, i giocatori di tennis, cosa che è successa, il più importante torneo di tennis su erba che avrebbe dovuto iniziare a luglio, i giocatori perderanno appunto magari premi milionari, ma chi proprio non avrà un'entrata sono tutte le persone che lavorano all'organizzazione di quel torneo, dai raccattapalle ai giudici, e poi c'è tutto il mondo degli allenatori, dei preparatori, insomma, ripeto, dobbiamo sempre stare attenti quando parliamo di sport a non pensare solo alla punta dell'iceberg, che sono i super campioni. Cambiamo un pochino argomento, o meglio, restiamo sempre in tema Covid, però cambiamo soprattutto paese, perché la BBC ha dato conto di questa presa di posizione molto netta del Fondo Monetario Internazionale che, tornando sul tema negoziati Brexit, ha detto farli adesso, cosa che naturalmente, se tutto fosse andato in modo diverso, sarebbe successa. E dico, quando dico tutto fosse andato in modo diverso, non è soltanto lo scoppiare della pandemia, mia, ma anche il fatto che il Boris Johnson, in questo momento, che è il premier del Regno Unito, che ha vinto le ultime elezioni anche promettendo una soluzione rapida dei negoziati per la Brexit, il suo slogan è stato Get Brexit Done, quindi facciamola finita con questa Brexit, ecco, potremmo tradurre così, ha avuto il coronavirus, è stato dimesso ma è convalescente, quindi c'è anche un problema oggettivo di mancanza del capo dei negoziatori, perché abbiamo capito tutti che Boris Johnson non è una figura facilmente sostituibile. E quindi il Fondo Monetario Internazionale, per bocca della sua presidente, il direttore operativo del Fondo Monetario Nazionale, Kristalina Georgieva, ha detto: cerchiamo almeno di non mettere sul tavolo anche questo motivo di incertezza. Vedremo, perché finora appunto non si ha notizie di novità per quanto riguarda i negoziati per la Brexit. Molto interessante, e che dà l'idea, insomma, di forse di come parla un capo di Stato, è l'intervista che Emmanuel Macron ha rilasciato a Financial Times ieri, che Financial Times ha messo in prima pagina con l'onore che si dà alle grandi interviste, alle grandi esclusive, quindi a tutta pagina. E Macron ha parlato soprattutto della situazione europea, dicendo che questo della reazione di cui abbiamo parlato all'inizio dell'Unione Europea alla pandemia è il momento della verità. Ha toccato tantissimi temi, ha parlato dell'orgoglio che si ha a partecipare al progetto dell'Unione Europea, che però questa pandemia dimostra che deve fare un salto di qualità. Da progetto politico deve anche diventare un progetto veramente sociale, autenticamente sociale. Poi naturalmente ha anche parlato di tutti gli aspetti legati alle banche, alla fiscalità, che sappiamo sono ancora delle grandi differenze all'interno dell'Unione Europea. Vi segnalo, per veramente questa volta lasciare un po' da parte il coronavirus, da internazionale di questa settimana, un bellissimo ritratto che è stato tradotto dal Guardian di Stella Nyanzi, che è una poetessa ma anche un'attivista ugandese, è stata in carcere perché aveva scritto una poesia che prendeva in giro il presidente Yoweri Museveni. Poi è stata liberata ed ora scrive in questo articolo di Financial Times di questa poetessa che è nata nel 1974, quindi non ha ancora 50 anni, dice è più arrabbiata e provocatoria di prima. Sempre da internazionale vi segnalo un lungo articolo tradotto dal New Yorker, interessantissimo, che si intitola La ricerca di una cura per la mente, che spiega come da quando è nata, alla fine dell'Ottocento, perché è una delle discipline della medicina più giovani, la psichiatria si interroga sul suo oggetto di studio. Che cos'è un disturbo mentale? La risposta non è ancora chiara, anche se le terapie psichiatriche continuano ad aiutare i pazienti. E ricordiamo sempre che in generale la psichiatria sì, è anche terapia della parola, ma è soprattutto terapia farmacologica. E quindi il tema di come classificare i disturbi mentali, c'è un manuale che si chiama DSM che viene costantemente aggiornato, e soprattutto quali medicinali usare per ciascun disturbo mentale. E poi anche cercare di affinare queste diagnosi. Fino a non molti anni fa, per darvi un'idea, l'omosessualità era inserita in questo DSM. Quindi come un disturbo mentale. Naturalmente non è più così, però per dire quanto possa essere difficile dare una definizione e quindi anche una cura di disturbo mentale. Ultimissima segnalazione, sempre tradotto da internazionale, un commento che è apparso su una rivista danese, Politiken, che si intitola Sanders ha perso, le sue idee no. Il riferimento è naturalmente a Bernie Sanders, che si è ritirato un paio di settimane fa dalla corsa alla Casa Bianca e questa settimana ha pubblicamente detto votate per Joe Biden e è il più a sinistra di tutti i candidati del Partito Democratico e da qui appunto si spera, così scrive in questo commento il magazine danese, si spera che alcune delle sue idee così estremiste per gli standard americani di equità sociale restino come patrimonio della prossima amministrazione se ci sarà un democratico alla Casa Bianca. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.